destinata a fare questa operazione. Domani pomeriggio c'è una partita di calcio perché ho un impegno anche di sport, quindi devo andare per forza al campo a San Giovanni che gioca la mia squadra, io ci devo essere. Domenica mattina sono in turno, così tutta la settimana impegnato, cazzo, a morire. Il problema è che adesso disponibile di mattina non ce n'è, sono tutte impegnate. No, adesso lunedì chiamerò Pablo e vediamo se ne mandano qualcun altro. E quindi sono con la mia macchina, però vabbè, sono fermato in corrale in questi giorni, non c'è problema. Per domenica mattina già c'è quella dell'altro turno di servizio, che è a riposo, quindi prendo quella. Pazienza, no, vado a parlare, voglio lavorare anche domani, che sono qui tra con voi, c'è una cosa da fare domani mattina, devo andare a fare il porto, devo sistemare alcune cose che mi interessano, c'ho dei versamenti da fare per la squadra, ma lascia per, vabbè, pazienza. Non mi riesco a fare. Piccolino.